Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. L'idea piace e con Ezio facciamo un patto. Da quest'anno, per Natale, io ti spedirò il pan dolce e tu contemporaneamente mi spedirai la gubana. Era il dicembre del 1954. Sono passati 58 anni. Io sono Giorgio De Ferrari, sono genovese ma vivo a Torino. Sono architetto, ma ho sempre fatto anche il docente di design alla Facoltà di Architettura di Torino. Le varie cose che le festività natalizie portano con sé, i dolci, i pranzi, le cene, i regali, eccetera, eccetera, c'è un'altra cosa che non a tutti succede, ma a molti pare di sì, ed è che per quelle festività, e spesso proprio in un giorno preciso, la vigilia, il giorno di Natale, quello un po' di meno, il 26, il 31 o il 6 di gennaio, ogni tanto capita che per solo per quella volta lì, in tutto l'anno, si incontra o ci si rimette in contatto con una persona. Chi è quella persona e perché? Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, sono le 16:10 minuti in diretta dagli studi di Milano. Oggi raccontiamo la storia di Giorgio, che è una storia che parla di usanze natalizie, ma non solo, parla di amicizia e parla di molto altro. 349-238-6666, abbiamo un profilo Facebook che è Voi Siete Qui Radio 24 e un profilo Twitter che è Voi Siete Qui R24. Il mio profilo Twitter invece è banalmente Matteo Caccia e ci scrive proprio Cristina: io sento tutti i Natali degli amici olandesi che come ogni anno ci mandano una cartolina di auguri fatta da loro e io gli invio una lettera ormai da circa 15 anni. 349-238-6666. Fioravante manda un messaggio, è una storia piuttosto lunga che riassumo brevemente. Da quasi 30 anni lui tutti i 23 di dicembre va a trovare la mamma di un suo amico che non c'è più da 30 anni e le porta un piccolo regalo e sta con lei per un po' di tempo durante il 23 di dicembre. 349-238-6666. Se vi ricordate quella persona che vede, mia nonna ad esempio, mia nonna non c'è più da più o meno dall'anno scorso esattamente, ma il 24 di dicembre tutte le vigilie, il Luciano arriva, che era un suo nipote, arriva, ma cascasse il mondo, neve, pioggia, bel tempo, che fosse a casa o in montagna, Luciano arrivava. Chi vedete, chi sentite sempre durante le feste di Natale? 349-238-6666. A Genova, la mia città, il dolce di Natale si chiama pan dolce, panduse. Con la stessa passione con la quale puoi essere genoano o sandoriano, così puoi partecipare e parteggiare per il pan dolce tipo alto, una cupola semisferica burrosa, pesante, ricca di uvetta, pinoli, scorzette candite di cedro ed arancio, oppure per il tipo antica ricetta, basso e friabile, ancora più pesante e ricco. E questa è la premessa. Nel 1953 sono di leva nell'allora obbligatorio servizio militare, 18 mesi di naja. Ammesso alla scuola allievi ufficiali di complemento, parto vedendone gli aspetti positivi. Occasione di una vita diversa, nuove amicizie, conoscenza di luoghi lontani, non mi ero mai allontanato da Genova. Viaggiare era ancora cosa rara. E, a fine corso, anche un'allettante retribuzione. Io, allora, andare via dalla propria città, erano pochissime le occasioni, non è che si viaggia come adesso. Andare allontanati dalla tua città erano occasioni che dovevi costruirtele, a meno che non fossi in situazioni particolari. Per cui la vita militare era un modo che io sentivo di prendere per fare delle esperienze diverse e conoscere posti diversi. Da luglio a dicembre 1953 sono a Lecce, caserma Nacci, scuola di formazione. Da gennaio a luglio 1954 sono a Roma, caserma Cecchignola, scuola del Genio Pionieri. 6 mesi di campi ed esercitazioni con studi impegnativi. Fra gli amici commilitoni c'è Ezio De Piaggi, goriziano di madre genovese. Accomunati dall'ordine alfabetico, sovente condividiamo attività ed esercitazioni. Accomunati da interessi comuni, sovente condividiamo la libera uscita. Monumenti, musei, cucina romanesca. Superiamo gli esami del corso ed entrambi siamo destinati ad Udine. Nel luglio del 1954 siamo alla caserma Spaccamela, allora al limitare della città. Rispetto al duro anno passato sono 6 mesi con i fiocchi. A dicembre i festeggiamenti per il prossimo congedo. Ezio De Piaggi propone un viaggetto a Gorizia. Avrei conosciuto una bella città, la sua famiglia, la madre, ottima cuciniera e naturalmente nostalgica della lontana Genova. Di buon grado accetto la proposta. Gorizia è inaspettatamente interessante. Divertente il recupero del dialetto genovese. Ottimo il pranzo con le portate liguri e carsiche. E per finire c'è la gubana, tipico dolce goriziano, dove una burrosa friabilissima sfoglia avvolge una farcia di noci, uvetta e altre meraviglie. La mamma De Piaggi manca da Genova da molti anni, ha nostalgia di tante cose, che io presto invece avrei ritrovato. A Natale poi il pan dolce, tipo alto, naturalmente, di fine pranzo. Non c'è problema, dico io. Arrivo a Genova fra pochi giorni, mi piombo dal migliore pasticcere, che fa anche spedizioni, e per Natale certamente festeggerete con il vero panduse. L'idea piace, e con Ezio facciamo un patto. Da quest'anno, per Natale, io spedirò il pan dolce e contemporaneamente tu spedirai la gubana. Era il dicembre del 1954. Sono passati 58 anni. Nel frattempo io, stabilitomi per lavoro a Torino, mi sono sposato. Ho avuto figli, ho due splendidi nipotini. A tutti piace molto la gubana, quella che tutti sappiamo arriverà per Natale. Ormai è parte della nostra festa. Ezio, invece, stabilitosi per lavoro a Trieste, si è sposato, ha una figlia e degli splendidi nipotini. E a tutti piace il pan dolce genovese, quello che loro sanno arriverà per Natale. È parte della loro festa. Pochissimi i contatti intermedi. Non ci siamo più incontrati. Tutto è rimasto legato a quella promessa e amichevole piacere di mantenerla. Solo un'eccezione. Un anno eravamo ormai lontani dall'Epifania e la gubana non era ancora arrivata. Certamente un disservizio o qualcosa d'altro. Telefono a Ezio, che mi assicura che la gubana era stata regolarmente spedita. Ad ogni buon conto ne avrebbe spedita una seconda, che ricevo regolarmente. Poco dopo ricevo anche la prima, per la verità ormai piuttosto asciutta. Rispondo inviando un secondo pan dolce. Tutto ok. Ecco, questa è la storia che ho scritto e che prima di spedire a Voi Siete Qui avrei inviato ad Ezio per una preventiva lettura. La invierò invece a Chiara, la figlia di Ezio, che stamane, proprio stamane, ha telefonato da Trieste. Il Natale passato è stato l'ultimo festeggiato con la gubana che ricevevamo dall'amico Ezio. Alleluia! Alleluia! Io il militare non l'ho fatto, questo però mi sembra uno dei motivi per cui sarebbe stato interessante farlo, i rapporti con le persone. Come sempre, come in tutto, sono i rapporti con le persone che salvano o che mandano in vacca le cose, i lavori, le situazioni varie, le famiglie. Tra l'altro questo è l'esempio di come non esistano modelli unici di rapporti umani. Un unico modo per essere amici, un unico modo per essere fidanzati, un unico modo per essere genitori o figli. La storia d'amicizia tra Ezio e Giorgio può sembrare solo una storia di abitudini natalizie, ma secondo me è soprattutto un'altra cosa. È una storia di speranza. È una storia di speranza e di conferma, costante e continua. Ezio e Giorgio non si sono mai più visti dopo quei mesi passati insieme da ragazzi come giovani ufficiali. Ed è vero che probabilmente quella vita ti unisce in modo particolare, perché fai esperienze che non faresti mai al di fuori di quei luoghi. Fai un pezzo di strada insieme che ti lega per sempre, però questo non è successo solo a loro. È successo anche a milioni di altri commilitoni che hanno convissuto per un anno, due, e poi hanno mantenuto rapporti cordiali anche se a distanza. In quello scambio continuo di dolci della propria terra e della propria tradizione, io vedo un'altra cosa, vedo un gesto di speranza. Non tanto di speranza in uno scambio di dolci, ovviamente. Io ti mando il pan dolce e tu quindi vedi di mandarmi la gubana. No, proprio di speranza nei confronti di qualcuno che, anche se non vedi, sai che c'è e ti risponderà. Qualcuno che, anche se è lontano, si ricorda di te e ti risponde a prescindere da quello che tu gli dirai. Perché è un essere umano, come te. Perché ha condiviso qualcosa con te e si ricorda ogni anno, in quei giorni, di te. In quel gesto vecchio come i viaggi dell'uomo, no? Che è quello di spedire un pacco perché raggiunga qualcuno lontano, c'è una fiducia, c'è una speranza che sono quasi commoventi. non lo so, forse perché si avvicina al Natale. A me però questa storia ha dato una fiducia e una speranza incredibile. E anche se sembra assurdo, mi ha fatto venire in mente un passaggio di un libro che è anche un caposaldo della letteratura mondiale, Il viaggio in Italia, di Goethe. È proprio lui, quello di Vedi Napoli e poi muori. Durante la sua permanenza a Venezia parla di un'antica tradizione veneziana. Non c'entra niente col pan dolce alla cubana, ma state con me. La tradizione veneziana è il canto dei gondolieri, che cantano per avvisarsi tra di loro nei canali quando sono immersi nella nebbia, no? E lanciano il loro canto nel vuoto, proprio come Ezio e Giorgio hanno fatto per 58 anni, nella speranza che l'altro ricevesse e restituisse. Dal viaggio in Italia di Goethe, 6 ottobre 1786, Venezia. Avevo preso stasera disposizioni per ascoltare il celebre canto dei gondolieri. Bisogna ordinarlo apposta, è caduto in disuso. Appartiene ad un mondo di leggende quasi dimenticate. Un uomo fa risuonare il suo canto fino alla maggiore distanza possibile. Esso si diffonde sul calmo specchio acqueo. In lontananza viene udito da un altro, che capisce e risponde col verso seguente. Sicché ciascuno fa sempre da eco all'altro. Più grande la distanza tra loro, più struggente riesce il canto. Potrei così penetrare il senso intimo di quel canto. È una voce che giunge da lontano, stranissima, come un lamento senza tristezza. Vibra di un accento indicibile e commuove fino alle lacrime. È un uomo solo che canta verso gli spazi lontani, perché un altro uomo lo oda e risponda con simile cuore. I need someone to love. Posa in fotografia Giorgio insieme ai suoi nipoti. Trovate la foto come sempre sul sito di Radio 24, alla nostra pagina. Voi siete qui. I due nipoti che avranno, non mi intendo di età di ragazzini, 4, 5, 6 anni più o meno. Sono biondi con gli occhi azzurri, un po' come tutti i bambini più o meno. Sono biondi con gli occhi azzurri e abbracciano il nonno, che invece è vestito elegante e ha una bella barba bianca. Pronto Giorgio? Sì, sono qua. Ciao, come stai? Io sono qui. Grazie, bene. Dove sei in questo momento? A casa? Sono in cucina. Non preparavo un pan dolce, ero okay. In cucina. Anche perché il pan dolce non lo preparavi tu, lo compravi? No, non si riesce a fare in casa, sono quelle cose semplici ma difficilissime da realizzare. E lo stesso quindi vale per la cubana. Quindi tu hai il pasticcere di fiducia che vai solo lì. Quindi tu, il tuo pasticcere di fiducia era genovese, ovviamente. Assolutamente, non ti dico il nome, ma tutti i genovesi li immagino qual è. Immagino cioè tu stai dicendo, in questo momento tutti i genovesi sanno di quale pasticceria sto parlando. Assolutamente sì. Ok, dimmi dove si trova per capire più o meno. Ce ne sono diverse in città e questo è un altro indizio. Okay, va bene. Invece la gubana arrivava da una pasticceria particolare di Gorizia. No, la gubana arrivava da una pasticceria che però era una cosa molto artigianale. Per cui io spedivo questo, e questo è un altro aspetto curioso, spedivo il pannocchio, lo spediva a questo pasticcere in una scatola, una bella scatola, una specie di cappelliera molto bella, sì. E quasi sempre l'anno dopo l'involucro con il quale veniva servita la cubana era quello che io avevo spedito l'anno prima. Col pan dolce. Quindi vi scambiavate le confezioni? Ma in modo tacito, non era stato stabilito, però io solamente ricevevo da nuovo la stessa scatola con dentro però la cubana. E Giorgio, però devo dire, la cosa bellissima di questa storia è che per 58 anni, che sono un numero di anni altissimo, cioè altissimo. Sono quasi 60, cioè è diverso immaginare, nel senso che quando tu parli dell'Italia di 58 anni fa, quando ti eri conosciuto con Ezio, era veramente un altro paese, no? Un altro paese. Era proprio un'altra epoca, quindi in 58 anni cambiano le cose, tu cambi città, lui cambia città, vi sposate, avete figli, avete dei nipoti, eppure tac, a Natale arriva sempre questo dolce, sempre uguale, che dà veramente una sorta di, non so, io l'ho letta così, forse l'ho letta male, sono stato particolarmente romantico nel leggerlo, ma una sorta di speranza, no? Nell'essere umano, non ci sentiamo, però il dolce arriva. E anche, esatto, in modo un po' magico rimaneva, anche per i miei nipoti, per i miei figli. E mi pare anche i miti, i riti nascono così, non sai bene perché, ma questo ripetersi allo stesso modo, in modo un po' non tutto chiaro, Io una volta ho avuto occasione di passare da Trieste andando in Slovenia, ma ho pensato telefono a Ezio, poi ho pensato che era meglio non telefonare, di lasciare questa cosa più così. Sì, sì, chiaro, chiaro. Giorgio, purtroppo non ho tanto tempo. Volevo però capire, certo. Quando tu dici stamani, mi ha scritto Chiara, stamani sì. Quando era? Era più o meno un anno fa? No, era esattamente questa primavera. Ah, ok, quindi tutto è successo in primavera. Prima di chiudere, io voglio leggere un messaggio che mi è arrivato oggi. Senti, volevo solo dirti solo una cosa. Io ti ho mandato la foto con i due figli, sì. Perché mi sembrava che finivamo un po' con mestizia questa lettera. Ah, ok. E sotto quindi... Natale volevo che ci fosse invece un momento di speranza come tu hai individuato, e per quello lì ho mandato. Guarda, non c'è alcuna mestizia, nel senso che addirittura volevo chiudere in questo modo, leggendoti un messaggio che mi è arrivato al profilo Facebook, che ieri, ascoltando la tua voce in chiusura di programma, Cristina ti ha riconosciuto e mi ha scritto: è un mio professore di università, è ancora prima professore di mio padre, è stato mio relatore di tesi di laurea ed è la persona che più di tutte ha formato le mie capacità progettuali. Si chiama Cristina, poi magari se vuoi ti dico anche il cognome fuori onda. Io le ho chiesto di più e lei mi ha raccontato diversi episodi, tra cui uno divertente, in cui pare che tu abbia detto durante una lezione o durante un esame universitario davanti a uno studente che era un po' rigido mentalmente, tu pare che gli abbia detto: sì, ma rimbalza un po' di più, come a dire, sii un pochettino più elastico. Per quanti anni hai insegnato all'università, Giorgio? Per 45 anni. Adesso ti diletti ancora a disegnare, a progettare, o hai abbandonato? Beh, adesso ho lasciato lo studio ai miei giovani colleghi, però il progetto rimane la cosa più che mi diverte, oltre che fare il nonno. Immagino. Tante altre cose. Non ho trovato stress a lasciare il lavoro attivo. Okay. Sono tante altre cose che si possono fare e sono molto belle anche loro. Mi scrivono: la pasticceria di Genova è Vogrig? No. Panarello. Comincia per la P. Panarello. Ok. Beccato. Grazie mille, Giorgio. Buon Natale. Grazie, un bocca al lupo per tutto. Grazie a voi, mi avete mandato dei bei regali. A te. Ciao, grazie. Giorgio. Ciao. Tutti gli anni sento per SMS Ye e Luke, due bikers che incontrai ad un motoraduno più di 16 anni fa, mi scrive Resca. Io a Natale puntualmente dal 1984 ricevo un biglietto da Cambridge della famiglia che mi ospitò due volte per una vacanza studio. Io contraccambio con una foto di me e famiglia per far loro capire come cambiano, restando sempre le stesse persone. Io voglio ringraziare e salutare tutti quelli che hanno reso possibile anche la puntata di oggi, ringraziare e salutare gli ascoltatori delle 16, ma anche gli ascoltatori delle 5 del mattino, che so che continuano ad esserci e che ascolteranno questa puntata a questo punto lunedì mattina alle 5, non sabato mattina, giusto? Lunedì mattina alle 5, un augurio di buone vacanze a tutti se mollate e andate. Noi siamo comunque in onda da lunedì per tutte le feste fino al 3 di gennaio e poi oltre a ripartire dal 6, anzi il 7 e l'8 saremo a Firenze per Pitti Uomo. Grazie a Tiziano Bonini, grazie a Pietro Lacorte, grazie a Margherita Ina, grazie soprattutto a Giorgio, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Ginevra, vivo a Milano, la storia di lunedì è la mia e parla della lotta dei miei anticorpi verso il Natale. Questa è la mia storia e io sono qui.